Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. La penna è davvero più potente della spada. Che per la campagna elettorale lei lascia la sua Ferrari in un'area di sosta sul raccordo anulare per poi mettersi al volante di una Fiat Panda? Allora, primo, non ero durante la campagna elettorale, ma l'avrò usata 5 volte in un anno. Ma poi non c'è nulla di vergognarsi, solamente una sensibilità di non ostentare. Yes, I'm gonna be a star. Mi ricorda Marino, che arrivava in macchina e poi faceva gli ultimi metri in bicicletta per fare il fenomeno. Mi sembra veramente una presa in giro nei confronti dei romari. Se ti sei guadagnato la Ferrari, vai in giro in Ferrari. Se hai qualcosa di cui ti vergogni, evita di fare il fenomeno, lasciarla sul raccordo anulare e poi andare in giro in Panda. Non ostentare non è più sufficiente, bisogna rinunciare a quei privilegi. Poi, quindi fine, a questo punto vende la Ferrari, una ragazzi. Ferrari grigia, no, sì, bellissima. Sì, ma che purtroppo uso poco. Però vede, la sensibilità... Però non la venderà la Ferrari. Sì, sì, sì. No. Io con i ragazzi abbiamo deciso... Ma sì, perché è veramente così. Cioè, i privilegi nella politica sono qualcosa che non ti puoi permettere. Sai che farei fossi Marchini avendo la Ferrari? Me la metterei alla garbatella a dire alla già, volete entrare a farvi girare la Ferrari? Non che la nascondi, mettila a disposizione. Io certo, metterei sulla Ferrari Alfio Marchini, venite a fare un giro. Ragazzi, che spettacolo, le elezioni a Roma, che spettacolo. Da 3 giorni imperversa la Ferrari di Marchini. La Ferrari, quella che non ostenta agli straccioni romani, non la ostenta. Allora lui arriva in un autogrill su un grande raccordo anulare in Ferrari da fuori. Vroom, vroom. Poi sale su un pandino e via per Roma. E ora la vende. Ma perché la devi vendere, Marchini? Ma per favore, ma perché? I privilegi della politica, ma mica te l'ha data al Parlamento, te la sarai comprata con i tuoi soldi, Marchini? Ma tieniti sta Ferrari, ma che problema c'è? Gira in Ferrari, dai, sgomma un po', fai un testacolo, vai lì in Vaticano e... Oh! E via, su, e via. Devo dare, cari miei amici, che vi accendete alle 6:30 come degli interruttori. Anzi, vi chiamerò così, cari interruttori miei. Eccoli qui, un abbraccio da Somenden. Somenden. Così. Dov'è Somenden? Vabbè, salutiamo Somenden. Lorenzo, scoprimi dov'è Somenden, per favore. Saluti da San Pellegrino Terme, da Marco, grande Marco, saluta 24 mattino, ci siamo. Provincia di Bergamo, Zogno, Bergamo, 329 abitanti, uno dei quali è nostro ascoltatore, Somenden. Saluti da Montevecchia, grande a Lorenzo. Saluti da Monteveglio, è il giorno dei monti, Marco. Gennaro da Napoli, eccolo qua, ci auguro una serena giornata e via, tutti in Ferrari. anche perché ragazzi dobbiamo animare un po' la giornata di oggi. Io quando ho aperto il Corriere della Sera ho letto sei prime pagine dedicate alla Chiesa che critica le unioni civili, ma non è neanche, cioè mi dava quel sapore di ottocentesco, insomma. Le prime sei pagine. C'era poco invece di Monsignor Domenico Calcagno. Questa persona mi ha incuriosito, il Cardinal Calcagno, che è accusato di malversazione quando era vescovo a Savona. Non tanto per l'inchiesta, quella farà il suo corso, vedremo. Ma sapete che Monsignor Calcagno è noto perché nel 2012 gli fecero una perquisizione a casa e gli trovarono delle pistole 357 Magnum, dei fucili a pompa e delle carabine di precisione. Da allora è nominato Monsignor Rambo. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh? È proprio vero, Don Livio, padre Livio Fanzaga. Allora è mercoledì, devo subito convocare la nostra rossa preferita, la nostra e Paola Sanuzzi. La radio diventa. Buongiorno. Buongiorno. Paola Bainai. Ho appena preso un caffè dopo tutta questa. Dopo una notte in onda. Turno. Di notte in radio. E quindi sono sveglia, però. Sono sveglia come. come un grillo. In Ferrari. Ma tu vai in giro? Andresti in giro in Ferrari? Ti vergogneresti di andare in giro in Ferrari? No. Assolutamente no. La Ferrari è una delle prove dell'esistenza di Dio, nel senso. Insomma, io, sta partita di motori. Il motore della Ferrari parla e canta. Ah certo, la nostra camionista Paola Saluzzi, certo. Assolutamente, sì. Ma come diceva ieri una signora meravigliosa, perché poi tu devi andare in giro, Alino, buongiorno, te l'ho detto, buongiorno a te, buongiorno a tutti. In giro per bar. In bar. Ieri l'altro giorno in bar. Io li frequento tantissimo i bar, appena posso entro in un bar. No, ma scherzi, soprattutto nei bar della mia zona, molti sono gestiti da cinesi. Senti i commenti, ma che arrivi pure in biga, un sindaco che ci aiuta, quando ho sentito in biga, che arrivi pure, la signora non era per niente scandalizzata dalla storia Marchini, ma che arrivi pure in biga, un sindaco che ci aiuta. Beh, non capisco perché Marchini deve venderla adesso la Ferrari, ma non se deve mica vergognare. Quello tu hai detto una cosa giusta, insomma, su quello deciderà lui, ecco. È che fino al 5 di giugno, che poi diventerà probabilmente anche 19 di giugno, sì. Ne avremo da sentire. Comunque giustamente mi dicono una rossa su una rossa, che sono la rossa pantone, il rosso pantone più bello del mondo. Ecco. Allora devo salutare Mauro da Povoletto, Udine, Nunzio da Roma, anche Ivo da Monfumo. Ma cos'è? Ma mi prendete in giro? Monfumo? Oggi, ma cos'è? Monfumo? Controllami, Lorenzo, se ci stanno prendendo in giro. Monfumo. Intanto io devo salutare il direttore Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno. Da Viale Blignino, uno che va certamente in Ferrari. Intanto la notizia è questa, è in Italia. Luca Dini, ti sei fermato per un attimo. Sta soffrendo in Croisette o se sta soffrendo nella Verde Irlanda o se sta... si è svegliato in chissà quale altre parti di mondo dopo che ci ha abbandonato è a Milano, infatti senti l'umore già, è a Milano, nella Grecia, Milano. Viale Blignino. Va bene, a Milano. No, ma noi siamo più contenti. Va bene. Ma tu ti vergogneresti di andare in giro in Ferrari, caro Luca? Immagino, io non ci vado. Guadagnata onestamente, quindi voglio dire. Penso che sia una cosa di cui andare orgoglioso. Detto questo, rispetto anche il suo punto di vista, che può essere anche una cosa... Ma l'idea che lui ha di non ostentare per rispetto non la trovo così sbagliata. No, non ostentare va bene, ma perché deve venderla addirittura, poveraccio? Cioè, sai, è una sua scelta. Comunque è vero che riflettere sulle tue scelte anche personali quando ti stai per buttare in politica è una cosa saggia, non lo trovo così. Va bene. Ne parliamo tanto perché è una Ferrari. Certo. Siccome non può andare in giro con la Iacuzzi, no? Però... con la Jacuzzi. Sarebbe bellissimo, però un'immagine: Marchini che diventa sindaco, non lo so, su una biga con la Jacuzzi montata, portato lì. Sarebbe, ma guarda che sarebbe una scena straordinaria, ma io dico che voi due siete terribili. Ma è bellissimo l'insediamento in biga con una Jacuzzi montata, sarebbe una scena di quelle memorabili. Allora, devo dire che Monfumo esiste, è in provincia di Treviso, 1403 abitanti, di cui uno ascoltatore di 24 Mattino. Vabbè, adesso secondo me ci prendono un po' in giro, perché ci arrivano i saluti da Merlengo. giuro da Rocca Prebalza, non lo so, forse io aspetto gli auguri di buongiorno da Tre Palle, comune di Livigno. Da Tre Palle di Livigno, sai come si chiamano gli abitanti di Tre Palle? No, non lo sa. Fenomeni. Io voglio dire, adesso comunico a tutte queste persone che sto lavorando, anzi lavorando, no, mi sto divertendo con due persone meravigliosamente terribili. No, Fenomeni. Questa è una battuta. Tre Palle di Livigno è una ridentissima località, quella più in alto, credo, dell'Italia, e circola questa battuta da 20 anni, e quindi ti ringrazio per questo assist involontario, perché da 20 anni che ce l'avevo qui e dovevo dirla, e tu lo sai. Va bene, comunque, niente, scusate, rido, ma perché ci stanno prendendo in giro, chiaramente. Saluti da Spinimbecco. No, sono assolutamente false. Adesso arrivano le località più improbabili e io non ce la faccio. E quindi va avanti Paola Saluzzi, prego, continua pure su Radio 24. Anche perché quando viene l'attacco di ridarella, adesso facciamo un test. Quanti di voi vennero allontanati dalla classe più volte? Perché quando si attaccava a ridere era peggio che non sapere una cosa, che ti buttavano fuori. No, uno rideva perché rideva. Bene, allora abbiamo deciso che si può andare in giro in Ferrari, si può tenere la Ferrari o la si può vendere a seconda di proprie scelte. Certo, l'investitura in biga e Jacuzzi sarebbe... sarebbe un'immagine di quelle che, ammettila, tu a Roma non l'hai mai vista, sarebbe. E grazie a Luca Dini già te la prefiguri. E Luca Dini, devo dire, ci ha regalato questa immagine. Che volevi dirci? No, volevo dire questa cosa della Chiesa, poi torniamo su quello che vuoi dire, della Chiesa. Io, non lo so, massimo rispetto per le gerarchie e tutto, ma... Ecco, queste, non so se mi fa più così sobbalzare sulla sedia il fatto che Bagnasco dica le critiche, le unioni civili, queste sono legittime, tutto, porta avanti delle istanze, o le 7 pagine. Luca, tu che hai uno sguardo anche internazionale, spesso sei negli Stati Uniti, ma non voglio criticare, per carità, le posizioni, ma c'è tutta questa attenzione anche della stampa alle posizioni. No, anche perché è una non notizia, cioè l'opposizione della Chiesa dell'Unione Civile è una non notizia da liquidare, a essere generosi in mezza pagina. Hai ragione tu, e oltretutto secondo me alla stragrande maggioranza del pubblico italiano, all'opposizione della Chiesa, la dà per scontata, e non è che non gliene freghi niente, ma la dà per scontata, quindi non la trovo notizia. No, esatto. Invece, come dici tu, invece la... È l'enfasi i mitra di Don Calcagno sono una notizia. I mitra, Monsignor Rambo. No, effettivamente mi ha colpito questo, Monsignor Rambo. Però non lo so, vogliamo sentirlo, ma non ce l'abbiamo Bagnasco. No, noi non ce l'abbiamo. No, credevo Monsignor Rambo. No, Monsignor Rambo no. Però, cara Paola, allora, che dici? La posizione della Chiesa era questa, e la si poteva... diciamo attendere in questi termini. In particolare è chiaro da Monsignor Bagnasco e da tutto ciò che Monsignor Bagnasco rappresenta, e poi sai, i commenti, 6 pagine, Alessandro, questo appartiene poi a ciascuna testata, la volontà di raccontare o spiegare in questi termini. Siamo l'Italia e abbiamo il Vaticano qui da noi, e quindi forse questo spiega tutto. Credo, sì, non, sì. Non, mi, non, mi, non mi non mi Sì, non ti impressiona, no, ma è chiaro, però quello è insomma la grande attenzione mediatica data a questo. Sapete che ha fatto la Cirinnà a questo punto? L'ha buttata in musica, no? Per quei geniacci di Radio Rock, anzi vi inviterei con le palette subito ad alzare con il voto, hanno beccato la Cirinnà a cantare. Macho, macho man. Dai, macho, dai, però Cirinnà, un po' più di animo. Okay. No, ma che fa? Ma allora, canta. Si dice, quanto diventerà più rock l'Italia con la legge che lei ha concepito? Ah, l'Italia sarà molto più rock, molto più libera. Vabbè, insomma, e qui la dichiarazione sulla canzone, Luca, direi bocciatissima. Ma la Cirinnà era più un micio man. Sì, cosa faceva? Cosa faceva? Parlava, bofonchiava. Era un prodotto alla Fred Buongusto, diciamo. Esatto. Ma... sì. Beh, effettivamente sì. Era un macho man un po' così. No, o no, Paola? Un macho man. Ma provati a cantare all'improvviso macho man. Sì, effettivamente. Ecco, o ti scateni e dici oppure pensi anche a quello che dovrai dire dopo. Insomma, comunque devo andare al traffico, ma vi lascio, visto che lui con la sua Ferrari sta prendendo in giro perché c'è, vabbè, no, Bellano esiste, ma mi dicono anche da Corte Brugnatella, provincia di Piacenza, saluti da Bulgaro Grasso, ma dai, ma che... Saluti da Tremonzelli, da Gozzolina, e poi, vabbè, Bastardo in provincia di Perugia, Battifollo in provincia di Cuneo e Spinimbecco, si è arrabbiato anche, Spinimbecco di Villa Bartolomea, provincia di Verona, insomma, non ci prendete. C'è anche, il vicino Perugia c'è anche attaccati, li vedi sui cartelli, Colombo e Piccione. Esatto. E va bene, che dire, coraggio. Mi dicono invece Alessandra da Savona, Monsignor Cancagno è bravissima a fare i ravioli, non capisco la battuta, se lo è. Comunque, con la polvere da sparo. Con la polvere da sparo. Comunque andiamo al traffico con l'ultima di Marchini sulle canne. Lei non se l'è mai fatta, no, le canne? Sinceramente no, sono troppo ipericitabile, voglio evitare anche così. Fibio Milan, manda al traffico, in Italia, in Europa e nel mondo, debuffiato. Alessandro Milan, Vaticano, ti ascoltiamo e siamo contenti di 24 al mattino, evviva! Scusate signor Milan, voi facite la pubblicità, Matteo risponde. Ma volete spiegare quale Matteo? Perché noi teniamo pure Matteo Salvini. E poi parlammoci chiaro, c'è stato un terzo, si chiama Matteo Messina Denaro. Per favore, cerca di precisare quale Matteo sarebbe. Ma chi cazzo è Red Ronnie? Fanculo imbecille. Peter Bescapè, dopo le 50 sfumature di vino si beve il teino. Milan, l'alpino con la tisana non si può vedere. No, buona giornata. Lo so, ma l'alpino, dopo aver fatto la donata degli alpini, è tornato qui, insomma, sui gomiti, cara Paola, e il bombardino l'ha messo. Il bombardino, però Asti hanno dato prova ancora una volta di essere la fine dorsale d'Italia. Lo so, però si è, come dire, si è presentato con il tè e i fermenti lattici. Ma avete controllato se fossero tè e fermenti lattici? No, è perché così. Perché secondo me l'alpino l'ha detto per fare il salutista, per dire sono tornato al lavoro, ma secondo me il grande alpino nascondeva altro, non si sa. Allora devo parlare un attimo di questa vicenda, perché mi ha colpito un tweet. Sai che io, caro Luca Dini, ti controllo. Non è che siamo come la psicopolizia qua, non è che tutto... Allora, una figura strana che si aggira per l'Italia, quella del signor Severino Antinori. Questo medico ginecologo considerato spregiudicato da alcuni, adesso è sotto inchiesta perché è accusato di avere rubato degli ovuli a diverse donne, sedata una, addirittura obbligata dopo averne stimolato la produzione di ovuli per poi averli tolti, ma una roba incredibile. Tra l'altro Severino Antinori ha fatto anche due interviste, cioè è agli arresti domiciliari e rilascia interviste agli inviati delle TV, e ha detto tra l'altro che è tutto un complotto dell'ISIS. È una dell'ISIS, mi ha minacciato il 10 dicembre. Scusi, ma che interesse ha però di buttare tutto sulla questione degli ovociti, una presunta terrorista dell'ISIS? Ma lei non capisce niente allora, quando se l'ho scoperta, lei ha buttato sul fatto che io abbiamo rubato ovo, si è buttato su quella di tesi lì, ma sono arrivato secondo al premio Nobel, non sono prima dalla regina d'Inghilterra. Che è? Secondo, sono arrivato secondo al premio Nobel, la regina d'Inghilterra, fermatelo! L'ISIS? L'ISIS! No, Luca Dini, perché io vorrei, se tu vuoi, che tu raccontassi volentieri una piccola esperienza che hai avuto col signor Antinori. Detto che questa esperienza nulla ha a che vedere con il caso giudiziario, sì, certo. Di cui, e dell'accusa di cui veramente mi auguro sia innocente, ma è, voglio dire, e non mi sembra che l'inchiesta sia così chiara, quindi non è che voglio sparare il giudizio, però dico solo questo: io molti anni fa lui annunciò l'imminente clonazione umana, sì. In coppia, anzi in squadra con due tizi, uno era questo Panos Zavos, un biologo cipriota abbastanza discusso anche lui, e una signora che si chiamava Brigitte Boisselier. Questa Brigitte Boisselier io la conoscevo perché l'avevo intervistata, era praticamente il braccio destro di Rael, questo tipo fuori di testa o ciarlatano che sostiene di aver incontrato gli extraterrestri che gli hanno detto che da cui israeliani gli hanno detto che noi, che la razza umana è frutto di esperimenti di clonazione e che la clonazione ci salverà, ci porterà all'immortalità. Quindi io semplicemente raccontai un articolo chi erano i suoi Insomma, hai fatto qualche pulce. Beh, l'ho raccontato, perché. E lui che ti ha detto? E lui un giorno mi ha rivolto il telefono in redazione e mi dice: caro Dini, lo sa che la vita è lunga, le voglio dire che c'è stato un altro giornalista che mi ha criticato come lei, è morto di cancro. Ecco, io non mi sono toccato niente perché non sono scaramantico, non frega niente di queste cose, però mi sono fatto un'idea, del suo fair play piuttosto. Questo è il signor Severino Antinori, capito? C'è uno che se n'è occupato come lei ed è morto di cancro. Ma vi rendete conto? Così, testuale. Cara Paola, vabbè, insomma. No comment. Posso dire no comment. Ma certo, no comment, che dobbiamo fare. Veramente. Tra l'altro, Paola, c'è da dire una cosa. Io so che tu ci tieni molto a questo argomento, perché è un argomento al quale dovrebbero tenerci molto tantissime persone, molto più di quanto si legge solo nei fattacci di cronaca che ci vengono riproposti. Ma insomma, sono in 24 ore, in 48 ore per la verità, sono state uccise altre due donne. Sì, grazie Alessandro. Sono state uccise altre due donne, accoltellate dai loro compagni, fidanzati, mariti, come in questo caso due compagni giovanissime, tra l'altro, è l'ultima di 24 anni. Giustamente oggi il Corriere della Sera dice: quello che colpisce è questa cronaca ripetitiva, cioè cose tutte fatte con lo stampino, no? Le stesse dinamiche, le stesse situazioni, le stesse mancate denunce, le stesse paure di dire, le stesse persone intorno che potevano dire qualcosa e non l'hanno fatto. Cioè, è incredibile come L'amico che riceve il messaggio, oggi la vado ad ammazzare, la prende come un... Sì, gli dice smettila di dire stupidate, cosa gli scrive, no? E poi succede. Paola, niente, è scomparsa la linea. Paola, ci senti? No. Dalla donna che non vuole più vivere con te, fatto in questa maniera, deve finire, lo so che sto dicendo che debba finire di piovere, perché purtroppo basta che ci spostiamo dall'Italia, succede altrove e quindi ovunque succeda è un atto osceno nei confronti della vita, osceno, ma deve finire, perché questi o poi si tolgono la vita. E sinceramente parlando, una volta che hai tolto la vita a qualcuno con quell'argomentazione che poi tu ti tolga la tua, lo so che bisogna provare umana pietà, ma diciamo che per i primi tre giorni non ci penso all'umana pietà, mettiamola in questa maniera. Non si è obbligati a provare l'umana pietà per tutti. Ma poi a volte provano ad ucciderci, non ci riescono, ma pensa, molto spesso. Come l'ultimo caso, come l'ultimo caso di ieri. E l'ultimo caso di ieri non ci sono riuscito. Ma pensa un po'.